Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Molti ne avranno sentito parlare in passato, in questo periodo, molti probabilmente ne sentiranno sempre più parlare nei prossimi anni. È la figura dell'amministratore di sostegno, un ruolo che è reso sempre più necessario dall'invecchiamento della nostra società e dal fatto che tante persone, anche magari rimaste sole in casa, non riescono più ad essere completamente autosufficienti, non solo per la propria persona e per la vita quotidiana, ma anche per la gestione economica dei propri beni e delle proprie proprietà. Di questo parliamo con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, col presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Questo tema l'avevamo introdotto con voi proprio quando, ormai mi pare più di un anno fa o giù di lì, avevate attivato proprio un servizio relativo a questo tema. Sì, esatto, Mirko. Uno sportello che l'Adico ha istituito un po' di tempo fa, verso la fine del 2013, il quale assieme l'avevamo annunciato ai nostri ascoltatori e che oggi, dopo parecchi mesi dal suo avvio, possiamo finalmente trarre un primo bilancio di quello che secondo noi è stata un'esigenza che sempre più l'Adico ha dovuto far fronte alle persone, in questo caso anziane, e alla difficoltà delle famiglie di dover assistere i propri cari, proprio perché sempre più spesso viene chiesto, proprio per assistere le persone in difficoltà, alla figura dell'amministratore di sostegno. Una figura che può essere scelta all'interno dell'ambito familiare, che comunque viene nominata da un giudice, non è che uno si autonomina, magari lo fa effettivamente questo tipo di servizio, però ci deve essere appunto un decreto formale di un tribunale. Sì, allora innanzitutto Mirko, volevo dirti che dall'inizio dell'anno del 2014, nei primi veri 6 mesi di attività, abbiamo notato un incremento di circa il 10% delle attività svolte. La seconda, è, come hai detto te, è che l'amministratore di sostegno è un istituto che opera quando un soggetto, che in questo caso, come abbiamo detto, la maggior parte sono anziani, ma può essere anche una persona che gli sia sopraggiunta una disabilità, non è più autosufficiente, ma non certo incapace da intendere o di volere. E in questo caso il giudice nomina un tutore che agisce per nome e per conto di questa persona e soprattutto nell'interesse anche di questo caro e della salvaguardia proprio dei propri interessi, intesa anche proprio come non solo può essere per esempio una casa di riposo o il diritto alla salute, ma anche proprio quella gestione del proprio patrimonio. Eh sì, ad esempio il pagamento delle bollette piuttosto che gli acquisti di farmaci o degli alimentari, la spesa quotidiana, sono anche cose molto ordinarie, anche molto semplici, che però se non sono effettivamente regolate da un rapporto chiaro rischiano poi di creare problemi all'interno della famiglia. Penso ai parenti, a eventuali questioni ereditarie. Sì, normalmente l'amministratore di sostegno serve per, come abbiamo detto, per la normale gestione dell'attività della persona, ma ad esempio serve anche per, pensiamo, per andare a ritirare una pensione, perché per esempio molte persone che non si possono più recare in pensione e in posta o a pagare le bollette, magari anche se parliamo di accrediti, di addebiti eccetera, aveva l'abitudine comunque di andare allo sportello e farsi dare i soldi, ecco che anche qui l'amministratore di sostegno diventa una figura molto importante per permettere che questa normale routine possa andare avanti tutti i giorni. Ma soprattutto ricordiamo che normalmente l'amministratore di sostegno è sempre un familiare e, come detto, deve essere nominato dal giudice, però ecco, deve avere come onere quello di salvaguardare proprio l'interesse dell'assistito, che ricordiamo in questo caso non è che non sia in grado di intendere di volere, per cui si presume, insomma, che ci sia anche un certo rapporto tra la persona e l'anziano, e se parliamo appunto di anziano. Però quello che a noi è sbarcato come interesse da questo sportello che l'Adico ha istituito è proprio stato l'aumento delle pratiche che abbiamo gestito, perché veramente ci siamo accorti come probabilmente anche per effetto un po' di questo sportello, che alla fine aiuta anche le persone a disbrigare le pratiche per la nomina e per quello che, insomma, tutta la modulistica necessaria anche per dare un'assistenza alle persone, certamente sta avendo un buon incremento di lavoro, e questo ci rende anche noi entusiasti, insomma, del lavoro fatto, convinti appunto di continuare a innovarsi per far fronte a quelle che le esigenze delle persone sempre più ci richiedono al nostro staff. Ricordiamo che sul sito associazionedifesaconsumatori.it c'è anche a disposizione un vademecum con la risposta alle domande più frequenti che riguardano questa realtà, questo istituto che forse non è così conosciuto. Allo sportello, quali domande più frequenti vi vengono rivolte? Cioè, cos'è che la gente chiede di più come informazione? Beh, normalmente il caso più comune che a noi ci capita è quando a un certo punto le persone, bisogna purtroppo dire, arrivano sempre a trovarsi in un vicolo cieco, cioè ne scoprono la necessità di doverlo nominare quando per esempio hanno bisogno di andare a ritirare i soldi, o soprattutto quando hanno bisogno magari di ricoverare la persona in qualche struttura ospedaliera, e normalmente in queste situazioni sono gli stessi enti che subito ti chiedono qual è l'amministratore di sostegno preposto, e qua normalmente le persone cadono sempre un po' dalle nuvole. Questo anche con il tuo aiuto ci ha indotto appunto a rendere nota questa necessità, ma anche appunto a far sì che le persone considerino questa incombenza purtroppo da dover sviluppare, perché poi troppo spesso nel momento del bisogno ci si trova sempre nei vicoli cieco, e l'Adico con questo sportello vuole proprio dare una mano ai propri iscritti e non a ricevere tutte le informazioni e a disbrigare tutte queste pratiche. Non fatevi trovare impreparati dunque in eventuali situazioni del genere. Associazionedifesaconsumatori.it, come detto, c'è il settore dedicato proprio all'amministratore di sostegno. Grazie all'Adico, al presidente Carlo Garfolini. Settimana prossima ancora insieme con altri due argomenti. Buon proseguimento. Grazie Camico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.